Allora, intanto sono contento di essere qui. Quindi quando è stato Don Matteo che mi ha mandato un messaggino dicendo che mancava l'insegnante, il docente di questioni sul matrimonio, ha detto e mi ha chiesto di poter essere io qua tra voi e mi ha detto se ci vuoi pensare, dico no, non ci penso, senz'altro, ti dico subito di sì. Perché insomma è un pubblico attentissimo e un tema appassionante. Allora dopodiché appunto però devo dirvi che appunto in questa non è che esistano particolari programmi su questa materia, quindi sono questioni sul matrimonio. Allora io ho pensato, spero di aver azzeccato la scelta giusta, che di prendere come, perché è anche un'occasione per me utile, penso che lo sia anche per voi, di prendere come testo principale di riferimento, poi abbiamo 5 mattine, no? Quindi potremo anche fare qualche altro excursus, l'esortazione post-sinodale Amoris Laetitia, no? Perché in effetti, allora, sul matrimonio la Chiesa ha fatto 2 interi sinodi, uno era già previsto, l'altro l'ha anticipato il Papa e ha fatto un sinodo straordinario, con consultazioni un po' in tutto il mondo, quindi ha radunato un materiale molto interessante e molto attuale, no? E una annotazione, mi ricordo di aver sentito questo commento da Don Armando, che pure ha fatto tante lezioni su questo Amoris Laetitia, lui aveva fatto questa osservazione che comparando il documento di Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, con Amoris Laetitia, si nota che se in Familiaris Consortio la dimensione di precisazione dottrinale su che cos'è il matrimonio occupa, che so, 2/3, no? Circa, no? Del documento, e poi dopo ci sono le applicazioni pastorali. Invece in questo documento è quasi il contrario, cioè il ricordo diciamo, che cos'è il matrimonio secondo la Bibbia, secondo la dottrina della Chiesa, è come dire 1/3, invece molto spazio è dedicato a che cosa fare, no? Come fare per aiutare la famiglia oggi. Perché di fatto, e questo corrisponde un po' anche a una cifra, direi io, del pontificato di Papa Francesco, il quale, grosso modo, anche su altre questioni dice le questioni dottrinali sono state già molto chiarite da Vaticano II e anche dai pontefici precedenti, e adesso si tratta anche di fare, no? Di cercare di, non tanto di soffermarsi solo a dire che cos'è la famiglia, e che cosa deve essere, quanto dire come possiamo fare per, dovete pensare ecco, nelle varie situazioni del mondo, no? Quindi, che sono anche molto diverse. Allora, io quindi ho pensato per queste 5 mattine di prendere un po' quasi tutto il documento, se ce la facciamo, e il che può dare anche a ciascuna di voi qualcosa, spero, nel senso del ripasso se l'avete già letto, studiato, oppure della conoscenza se per caso è stato un po' lasciato da parte, ma anche darvi poi delle idee su corsi che potete fare voi, no? In vari ambiti, no? Incontri, corsi di base, incontri a casa vostra o dove volete, no? Dove vi chiedono. Ecco, allora io, dunque, questo documento comincia con una breve introduzione, che però secondo me è molto, molto, molto, molto importante, no? In alcuni passi. Dunque, faccio un'altra piccola premessa, è che a volte non. Poi il documento viene citato per il titolo, il classico titolo in latino Amoris Laetitia, e la gioia dell'amore, però Però il sottotitolo, che già è interessante, il sottotitolo dice vescovi, presbiteri, diaconi, persone consacrate, sposi cristiani, tutti fedeli laici, sull'amore nella famiglia. Quindi questa dimensione dell'amore nella famiglia è il focus del documento. E, fra l'altro, accenno qua, poi magari lo riprenderemo in un'altra lezione successiva, che pur essendo ovviamente l'amore nella famiglia un elemento essenziale, lo sappiamo anche dalla Sacra Scrittura, no? E anche San Paolo, quando parla del matrimonio, parla dell'amore di Cristo per la Chiesa, no? Cioè, però nei documenti del Magistero della Chiesa la dimensione dell'amore nel matrimonio è cresciuta a partire dal Vaticano II, Gaudium et Spes, dove effettivamente si parla dell'amore come elemento essenziale del matrimonio, e poi nei documenti successivi, no? Cioè, quindi Familiaris Consortio e in Amore Letizia è proprio centrale, no? Ci sono i due capitoli centrali che proprio si chiamano così. E quindi è interessante, è quindi il documento del Magistero della Chiesa che più si dilunga sulla dimensione dell'amore nel matrimonio, no? E come coltivarlo, come, insomma. E questo è un fatto molto interessante, molto positivo della situazione attuale del Magistero della Chiesa, che mette in evidenza questa dimensione essenziale, coltivando la quale sicuramente si ipotizza, si cerca di andare incontro e curare, no? Tutta una serie di difficoltà e di patologie, no? Del matrimonio, che sono senz'altro presenti nell'epoca attuale. Allora, la gioia dell'amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa. Quindi comincia così il documento, dice: la Chiesa gioisce di vedere che nelle famiglie c'è gioia dell'amore. Quindi il desiderio di famiglia nel sinodo, nonostante tutti i problemi, si nota che il desiderio di famiglia comunque è vivo anche tra i giovani, e questo dà molta motivazione alla Chiesa. Quindi l'annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia. Allora, il cammino sinodale ha messo in evidenza la situazione delle famiglie nel mondo attuale e ha permesso di ravvivare la nostra consapevolezza sull'importanza del matrimonio e della famiglia. Poi bisogna continuare ad approfondire con libertà alcune questioni dottrinali, morali, spirituali e pastorali. La riflessione dei pastori e dei teologi, se è fedele alla Chiesa, onesta, realistica e creativa, ci aiuterà a raggiungere una maggiore chiarezza. Qui il Papa dice: nei dibattiti su questi temi a volte ci sono un po' come delle radicalizzazioni, no? Cioè, da un lato chi vuole, ha un desiderio sfrenato di cambiare tutto senza fondamento, e dall'altro chi vuole tutto risolvere semplicemente applicando normative generali o traendo conclusioni eccessive da alcune riflessioni teologiche, no? Quindi lui vuole prendere un po' le distanze da questi estremi e cercare poi una via media. E qui dice, al punto numero 3, io spesso ho detto, così con una mia riflessione personale, che secondo me il punto più importante di questo documento è proprio questo punto introduttorio numero 3, ma perché ci dà un criterio, perlomeno a me lo dà come prete, e lo può dare forse anche a voi nel vostro apostolato, nel vostro, insomma, nella relazione con le famiglie. Dice questo: ricordando che il tempo è superiore allo spazio, desidero ribadire che non tutte le discussioni dottrinali, morali o pastorali devono essere risolte con interventi del Magistero. Questo è un punto, secondo me, epocale, cioè, perché è un certo atteggiamento, direi, culturale, no? Di decenni passati, cioè si aspettava dal Magistero sempre la parola definitiva e chiara sull'amore tutti i problemi, no? Poi perseguirla con certezza. E non è detto, dice qui il Papa, no? Che tutte le questioni, le discussioni dottrinali, morali o pastorali. Ovvio che nella Chiesa è necessaria una unità di dottrina e di prassi, ma ciò, ecco, questo è anche il secondo passaggio, non impedisce che esistano diversi modi di interpretare alcuni aspetti della dottrina o alcune conseguenze che da esse derivano. Cioè posso, quindi una cosa è avere la chiarezza, non so, il matrimonio deve essere unico e indissolubile, questo è evidente, no? Deve essere aperto alla vita, benissimo. Cioè però poi dopo, una volta date queste chiarezze, diciamo, che vanno bene per tutti, le situazioni umane sono così diverse che ci possono essere, poi dal punto di vista dell'applicazione di un primo. In questo, scusate, mi sono interrotto perché vi spiego. Mi viene in mente che queste cose sono molto, visto che voi tutte siete dell'Opus Dei, cioè sono molto coerenti con alcuni aspetti dello spirito dell'opera, alcuni aspetti che il nostro santo fondatore metteva in evidenza, e me ne vengono in mente subito due. Uno è la libertà che abbiamo, cioè che c'è nella Chiesa e che abbiamo anche noi nell'opera, e non solo, a volte la coniughiamo nel senso di dire libertà di votare un partito o un altro, di avere idee politiche, economiche, sociali diverse, coerenti col Vangelo, no? Ma anche nella teologia, solo che certo voi non essendo, cioè, non so se forse c'è tra voi, ma non è solo per una. Non è solo. Cioè per specialisti, no? Gli specialisti teologi, ecco, la Santa Croce, l'Università della Santa Croce hanno diverse opinioni diverse, no? Discutono, ci sono professori di una linea e di un'altra. Benissimo. Ma anche poi arrivare un po' più al popolo fedele, no? Cioè ci può essere una sensibilità per una cosa o per un'altra, anche dal punto di vista liturgico, no? Per esempio, ci possono essere sensibilità diverse, sono belle, valide, e se non sono condannate dalla Chiesa, possono essere assolutamente ricche, no? Cioè uno dice io preferisco la messa in italiano e con canti moderni e sempre nuovi, io preferisco la messa in latino con i canti tradizionali che cantavano i nostri bisnonni nella Missa De Angelis, cioè, queste due opzioni, abbiamo fatto un esempio, sono totalmente lecite e totalmente belle, probabilmente nella Chiesa ce ne possono essere queste due e altre decine che rendono ricco il popolo di Dio. Allora, ho fatto un esempio così facile, però è interessante, no, questo punto. Ciò non impedisce che esistano diversi modi di interpretare alcuni aspetti della dottrina o alcune conseguenze che da essa derivano. Questo succederà fino a quando lo spirito, scusate, ho detto di nostro padre il discorso della libertà, ecco, e l'altro discorso, della libertà di pensiero, l'altro discorso è importante, questo che. Forse è meno conosciuto da voi, ma so che esiste in una lettera che San José María scriveva per i sacerdoti, che il principio morale generale poi va applicato al caso particolare, no? Per cui per i confessori questo è molto importante, ma anche per tutte voi, no? E io ricordo che il Papa Francesco qualche anno fa in un incontro con un gruppo di gesuiti a Roma in cui hanno fatto domande e lui ha risposto un po' a braccio, e lui diceva che era preoccupato di notare che in alcuni seminari, non diceva quali, no, del mondo, stavano riproponendo un'impostazione pastorale che del tipo c'è questo principio generale, no? E quindi va applicato tout court a qualsiasi situazione. E lui era molto preoccupato di questo perché questo indubbiamente fa violenza alle persone, alle anime, in fondo anche allo Spirito Santo, no? Cioè il principio morale generale è molto importante, però poi tutta la sapienza della Chiesa, la sapienza anche in particolare del confessore, è quello di saper applicare alla situazione concreta, no? quel principio male. Questa era una cosa che anche San José Maria ci raccomandava. Cioè, che poi corrisponde al fatto che ci diceva che non solo che ogni persona è unica e davanti a Dio, che ogni situazione umana è diversa dalle altre, e che però corrisponde anche a una sorta, a una vocazione che il Signore ci dà, no? Inoltre, in ogni paese o regione si possono creare soluzioni più inculturate, attente alle tradizioni e alle sfide locali. Va bene, questo è anche un altro linea di pensiero del Papa Francesco, che dice: devono essere poi le conferenze episcopali o i vescovi locali a intervenire su situazioni concrete, no? Per questo lo dico, perché così si fa piazza pulita, se spero, di critiche. Non so, si organizzano un gruppo di cattolici, organizza il Family Day e il Papa non dice niente, non vuole dire niente e non lo dirà mai, perché dice, piuttosto che dicano quello che vogliono i vescovi locali. Io sono il Papa e devo pensare a tutto il mondo, e non intervengo in una situazione di una nazione, di una singola esperienza, no? Questo proprio obbedisce una, cioè, per capire il Papa ci sono tanti elementi da tenere presente, e questo è uno dei vari, no? E in ogni modo devo dire che il cammino sinodale ha portato in sé una grande bellezza, ha offerto molta luce. E ringrazio per i contributi di tutti, che hanno aiutato a considerare i problemi delle famiglie e del mondo in tutta la loro ampiezza. E io ho ascoltato tutti i padri con molta attenzione, e per questo ho pensato di raccogliere tutti i loro contributi e anche unire altre considerazioni che possono aiutare, no? La riflessione. E poi aggiunge, siccome questo documento arrivava nell'anno della misericordia, anche una proposta per le famiglie cristiane che stimoli a stimare i doni del matrimonio e della famiglia e a mantenere un amore forte e pieno di valori, come generosità, impegno, fedeltà e pazienza, e in secondo luogo anche incoraggiare tutti a essere segni di misericordia e di vicinanza lì dove la vita familiare non si realizza perfettamente o non si svolge con pace e gioia. Questo è molto importante, no, per noi, perché evidentemente è ovvio che noi ci rallegriamo quando conosciamo una famiglia dove, ecco, ci sono molti doni di pace, di gioia, di armonia, a parte che sempre in ogni famiglia c'è qualche difficoltà, no? Adesso io poi lo dico sempre, adesso essendoci qualche veronese tra voi che ascoltate, mi viene in mente il parroco di Alpo, che è un paesino, 85 anni, nella campagna veronese, che io andavo a prendere in macchina per portarlo a un circolo di sacerdoti, cooperatori, amici della società sacerdotale della Santa Croce, e un giorno mi raccontava a confidenza della sua esperienza sacerdotale, e lui che aveva passato varie parrocchie delle campagne lì della zona. E pensate alla benedizione delle case, no? In tutte le famiglie per la Pasqua. E lui mi diceva, dopo tanti anni, decenni e decenni di sacerdozio, diceva: Andrea, ricordati che in ogni famiglia c'è una croce. E quando non la si vede, vuol dire che è più grande. Io ho ascoltato e, come vedete, mi sono ricordato di questa esperienza pastorale di un parroco di campagna, no? Quindi, diciamo, quindi voglio dire, anche quando si vede una famiglia bellissima, e sicuramente ci sono delle difficoltà, che se no non sarebbe umana, non sarebbe. Però quella magari come dire, ci attrae come possibilità di ulteriore, metti caso, forse c'è anche una famiglia molto bella e dove tu hai la fede è ancora un po' in forma, quindi vogliamo avvicinarli a una visione cristiana della vita o alle nostre attività apostoliche e così via. Benissimo. Però anche questa dimensione di, invece di essere vicini dove la vita familiare non si realizza perfettamente, non si svolge con pace e gioia, con la nostra amicizia, con la nostra vicinanza, con la nostra pazienza, no? Perché poi magari quell'amica che si confida o collega, sulle sue problematiche, noi gli diamo suggerimenti, gli diamo aiuto e poi però torna, no? Magari quel problema non si risolve o non si risolve immediatamente o si risolve lentamente lungo gli anni, perché a volte ci vuole molto tempo, però e gli facciamo, poi ciascuna famiglia delle presenti avrà anche le sue problematiche, però noi facciamo come il buon pastore che si prende la pecorella sulle spalle. Ecco, allora, questa... infatti, e poi alla fine il Papa diceva, poi fa un po' un indice di quello che tratta e non consiglia una lettura. E poi dice che sono anche contributi diversi, no? Io mi immagino che abbia affidato ogni capitolo a un relatore, no? Forse per il primo capitolo ho una piccola testimonianza, una piccola così. Quando mia madre, che da tanti anni, quelli in vacanza, mia madre e mio padre vanno in vacanza, soprattutto negli ultimi anni, in una casetta che hanno sopra Bellagio, vicino a Civenna, nel triangolo Lariano, no? Vicino a Milano, e a 700 metri in mezzo al bosco. Peraltro una volta si vedeva di fronte la casa dove anche San José Maria aveva fatto un paio di estati, no? A Civenna. Adesso poi gli alberi l'hanno coperto. E lì, lì vicino, cominciò ad andare a villeggiare d'agosto Monsignor Ravasi, qua ancora quando era prefetto della Biblioteca Ambrosiana, e in una chiesetta di Guello di Bellagio, una piccola chiesetta privata che c'è, e faceva la messa quotidiana. Allora i primi fedeli erano mio padre che guidava i canti, mia madre che leggeva le letture, e così per tanti anni, no? Poi lui è diventato vescovo, poi è stato chiamato appunto dal Papa Benedetto a fare il prefetto del Pontificio Consiglio della Cultura, bene, e adesso è cardinale, quindi ci sono i carabinieri quando lui fa le messe, però è una continuità, no, di conoscenza. Quindi lei avendo ascoltato, mia madre ha ascoltato tante omelie di Monsignor Ravasi, quando ha letto il primo capitolo biblico di Amoris Laetitia, ha detto ho l'impressione che quel primo capitolo di Amoris Laetitia l'abbia scritto lei, Eminenza. Allora lui è rimasto sorpreso di essere stato colto, non in fallo, ma insomma, scoperto, no? Dice, beh, veramente sì. Comunque poi io l'ho dato al Papa e gli ho detto, lei cambi tutto quello che vuole, ne faccia l'uso che vuole, ma non ha cambiato neanche una virgola. Comunque sì, questo, quindi mi immagino che lui ha singoli esperti, che erano clienti, no? Però poi queste sono notiziole così che da gossip ecclesiastico, però che poi dopo però è del Papa, ecco, cioè bisogna essere tutti i papi e tutti i vescovi, tanti vescovi, tante persone, anche San José Maria, adesso vediamo le edizioni critiche, no, delle opere, si capisce il canovaccio di quell'omelia, di quell'intervista gliel'ha fatta quell'altra persona prendendo da cose sue, si capisce, no? Però, e poi dopo lui la rivista e l'ha fatta sua, no? Quindi questo è abbastanza normale. Quindi no, dobbiamo considerare una cosa che ha il valore di parola del Papa. Quindi lui ha fatto questo precetto, il primo capitolo è sulla scrittura. In questo senso, cioè io faccio così, approfitto per dirvi cose, no? Di commento. In questo senso è molto interessante tenere presente che, e dovete tenerlo presente voi anche nella vostra riflessione personale, quando preparate una conversazione, un circolo di formazione, cioè che Vaticano II, prendendo anche da un movimento biblico che veniva anche da molto prima, ha messo in evidenza come ecco, l'attività della Chiesa, sia di predicazione, sia di catechesi, sia di approfondimento teologico, deve basarsi di più sulla scrittura, ma non solo come si faceva in alcuni secoli passati, che era un'attività un po' quella teologica che a volte diventava un po' filosofica, cioè enunciavano il principio no? E per dimostrarlo andavano a prendere due o tre citazioni della scrittura, no? A conferma di questo principio, la Sacra Scrittura dice questo, dice quest'altro. Invece la proposta è di, soprattutto, tra l'altro, tra le varie ambiti della teologia, quello in cui è raccomandato in modo particolare di tornare alla scrittura è proprio la teologia morale. Quindi non solo appunto citare qua e là piccole, ma invece andare dentro alla scrittura e conoscerla in profondità per far emergere, no, quello che c'è di dentro nella rivelazione, senz'altro con la luce anche dei padri della Chiesa, della tradizione cristiana che l'ha insomma spiegata la scrittura. Allora, in questo senso è opportuno e bello che il primo capitolo di questo Amore e Giustizia sia, cioè, sulla scrittura. È molto sintetico in realtà. Io, per esempio, di Monsignor Ravasi, anzi, Cardinal Ravasi, ricordo un intervento quando ci fu, e ve lo segnalo senza la precisione della fonte, però forse lo potete trovare, quando ci fu appunto l'anno della famiglia, no? Venne Benedetto XVI a Milano, mi pare 2012. Allora, Studi Cattolici pubblicò, lui fece una relazione, no? E quindi sono temi che si sono qua, però più ampi, no? Più ampi. Quindi una relazione molto bella sulla famiglia nella Bibbia, però le tematiche sono queste, che poi lui evidentemente conosce, quindi anche snocciola nelle omelie, per cui mia madre ha potuto scoprirlo, eh? Quindi la Bibbia è popolata da famiglie, no? Dice il Papa, e quindi comincia con Adamo ed Eva, no? L'Antico Testamento, e voi pensate, ecco, e poi finisce con le nozze della sposa e dell'agnello, no? Le due case che Gesù descrive, costruite sulla roccia o sulla sabbia, rappresentano tante situazioni familiari, no? Create dalla libertà di quanti vi abitano. Poi passa cita il Salmo 128, che è quello che dice: la tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, e i tuoi figli come virgulti d'olivo intorno alla tua mensa. Ecco, possa tu vedere i figli dei tuoi figli, pace su Israele. Allora, tu e la tua sposa, quindi, e costantemente passa dall'Antico Testamento, il libro della Genesi, a l'insegnamento che ne dà Gesù, cioè quindi c'è un riferimento all'Antico e al Nuovo costantemente. Già Gesù ricorda, no? Non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina, e per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, i due saranno un'unica carne. Quindi senz'altro sapete bene che i due primi libri della Genesi hanno questo grande insegnamento, no? Non solo sulla creazione, ma sulla creazione dell'uomo e della donna. E sapete anche che lì c'è tutto un altro tesoro dottrinale, che Giovanni Paolo II è tornato su questi primi libri, sulla scrittura in generale, ma in particolare su questi primi due libri, nelle catechesi sull'amore umano, no? Uomo e donna lo creò, no? Pubblicati da Cittanuova, mi pare, no? E poi sintetizzati, per esempio, c'è un bel libro di Yves Semaine che sintetizza, no, il pensiero di queste catechesi, e poi ce ne sono anche altri libri che fanno un po' sintesi di questo insegnamento di Papa Giovanni Paolo II sull'uomo e la donna. Ci sono alcune affermazioni decisive, no? Per esempio, Dio creò l'uomo a sua immagine, l'immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. E cioè, è sorprendente, dice qua, che l'immagine di Dio abbia il parallelo uomo e donna. Cioè, l'immagine di Dio è l'uomo, uomo e donna, no? Che non significa che in Dio ci sia, no? Cioè, che sia sessuato in questo senso come uomo e donna, ma che la coppia umana, indubbiamente, sia nella sua dimensione di amore, sia nella sua dimensione procreativa, è l'immagine efficace di Dio, no? Quindi, poi cita l'Antico Testamento, proibiva di fare sculture di Dio, no? E tutto diventava idolatria, era per evitare queste, cioè era una tentazione molto forte, no? Per il popolo di Israele cadere nell'idolatria con i popoli vicini, però è suggestiva questa immagine, cioè la coppia uomo e donna sono la scultura vivente di Dio, no? Sono l'immagine di Dio. Interessante questo, no? Molto suggestivo, no? Molto suggestivo questa immagine, no? La coppia che ama e che genera, ma ci sono anche coppie che non generano, ma allora sono la stessa immagine di Dio dal punto di vista dell'amore e anche del desiderio di generare, che poi magari non è stato possibile. E manifesta Dio creatore e salvatore, no? Poi per questo l'amore fecondo viene a essere il simbolo delle realtà intime di Dio, no? E per questo ci sono, per esempio, tutte le genealogie nella Genesi, no? Che fanno vedere questo amore fecondo, no? Quindi, allora, Giovanni Paolo II, in una delle prime omelie da Papa, a Puebla, dice queste parole molto forti. Il nostro Dio nel suo mistero più intimo non è solitudine, bensì una famiglia, dato che ha in sé paternità, filiazione e l'essenza della famiglia che è l'amore. Questo amore nella famiglia divina è lo Spirito Santo. Quindi nella famiglia, la famiglia non è dunque qualcosa di estraneo alla stessa essenza divina. E poi questo aspetto trinitario ha una nuova rappresentazione nella teologia di San Paolo che mette in relazione l'amore dell'uomo e della donna con il mistero dell'unione tra Cristo e la Chiesa. E allora mette poi in evidenza un paio di dettagli, l'aspetto dell' Adamo che si sente solo e cerca un aiuto che gli corrisponda. Nell'ebraico, evidentemente l'autore usa l'ebraico, l'espressione originale rimanda a una relazione diretta quasi frontale, in questo come guardarsi negli occhi in un dialogo anche tacito, perché nell'amore i silenzi sono spesso più eloquenti delle parole. È l'incontro con un volto, un tu che riflette l'amore divino ed è il primo dei beni, un aiuto adatto a lui, una colonna d'appoggio. Cioè, poi è stato spiegato appunto da Giovanni Paolo II che questo aiuto sarebbe erroneo pensare che è la donna che aiuta l'uomo, è un aiuto assolutamente reciproco. Assolutamente reciproco. Fra l'altro, queste sono, infatti, qui si trova una cosa che piace molto a Ravasi, infatti, citare che nel Cantico dei Cantici c'è una stupenda professione d'amore, di donazione nella reciprocità. Il mio amato è mio, io sono sua, io sono del mio amato, il mio amato è mio. Cosa che già in italiano risulta un bel scioglilingua, ma in ebraico è ancora di più, no? Infatti, in quell'articolo di studi cattolici che vi ho citato, lui proprio trascrive l'ebraico del Cantico dei Cantici, in cui c'è tutta un suono molto bello di queste parole, no? E il secondo dettaglio, ecco, che unire, cioè quando Gesù dice anche così l'uomo si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne, no? Questo verbo unirsi nell'originale ebraico indica una stretta sintonia, un'adesione fisica e interiore fino al punto che si utilizza per descrivere l'unione con Dio, quando il Salmo 63 dice a te si stringe l'anima mia, usa lo stesso verbo, no? L'unione dell'anima con Dio e l'unione dell'uomo e della donna che diventano una sola carne. Sia nell'abbraccio fisico, sia nell'unione dei due cuori e della vita, e forse nel figlio che nascerà dai due. Quando nasce un figlio da questo amore, il figlio porta in sé, unendole sia geneticamente sia spiritualmente, le due carni. Questo è un concetto, se volete, molto bello, molto profondo, ma anche secondo me molto evocativo. Io penso che sia, interessante citarlo in qualunque problematica di tipo educativo, no? Cioè che i genitori si ricordino che quel figlio è nato dal loro amore, no? E quindi il loro amore unito può aiutare molto questo figlio. E comunque anche la loro azione educativa unita può aiutarlo, no? Ecco, I tuoi figli come virgulti d'olivo è un altro capitoletto in cui dice che nell'Antico Testamento, dopo la parola Yahweh, il Signore, la più frequente è figlio, ben, no? E, che richiama nell'ebraico al verbo costruire, banà, no? È interessante, no? Che sia un riferimento alla costruzione, no? di questa nuova esistenza, no? Quindi della Bibbia fanno riferimento appunto ai figli come faretra, no? Che rendono forte la famiglia, un'immagine della cultura antica, ma comunque in qualunque cultura i figli sono una ricchezza e una pienezza. Poi nella cita così molto rapidamente, no, nella Bibbia, come nel Nuovo Testamento la famiglia che diventa chiesa domestica, cioè all'inizio del Nuovo Testamento i primi credenti si ritrovano nelle case, lo sapete bene che poi anche a Gerusalemme è così, anche a Roma molte chiese sono nate sulla casa di una famiglia credente. Quindi la chiesa, la famiglia diventa sede dell'Eucaristia. Ecco, e in effetti anche tutta la casa diventa, insomma, è luogo dell'intimità, è luogo dell'amore, e quindi Gesù la usa, nell'Apocalisse si parla, no, di Gesù che sta alla porta e bussa, no? Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Poi ecco, la famiglia è anche la sede della catechesi dei figli. Questo anche è molto, nella Bibbia è molto presente, nell'Antico Testamento. Pensate alla celebrazione pasquale, no? Dove i padri insegnano ai figli la storia del loro popolo. È il luogo dove i genitori diventano i primi maestri della fede per i loro figli, no? È un compito artigianale da persona a persona, ma no? Quando tuo figlio un domani ti chiederà, tu gli risponderai, no? E questo, secondo me, è un elemento importante a cui ritornare, anche se non si negano le difficoltà e la necessità di aiuti, no? L'aiuto della scuola, l'aiuto della parrocchia, l'aiuto di tutte le istituzioni educative ai genitori, però questa priorità è molto importante e hanno il dovere, ecco, di compiere seriamente questa missione educativa. Il libro dei Proverbi cita spessissimo questo ruolo educativo dei genitori e i figli che devono onorare il padre e la madre. Chi onora il padre espia i peccati, chi onora sua madre è come chi accumula tesori, dice il libro del Siracide, no? Poi Gesù è modello di obbedienza ai genitori e allo stesso tempo gli fa capire in quell'episodio del Tempio che esiste anche una realtà più grande, no? Che è ciò che Dio chiede, no? Poi Gesù presta un'attenzione particolarissima ai bambini, questo anche tutte le volte che lo leggete dovete ricordare, possiamo ricordarci che i bambini facevano parte dei poveri, dei trascurati, degli emarginati, di quelli che non avevano nessun diritto, quindi fa parte di questa logica di Dio di rimettere in evidenza quelli che socialmente vengono esclusi, no? Anzi, li presenta quasi come maestri, no? Se non li fate come bambini e non entrate nel regno dei cieli, chi si fa come piccolo, come questo bambino, è il più grande nel regno dei cieli, no? Ecco, allora, a questo punto però anche la Sacra Scrittura, pur se dicendo tutte queste cose belle, anche la Sacra Scrittura, anzi, no, non ignora le difficoltà fin dall'inizio, no? Pensate, dopo il peccato di Adamo ed Eva, ecco, c'è la difficoltà che entra dentro nella relazione coniugale, no? E anche nella relazione con i figli, c'è cioè il dolore del parto, poi Poi c'è la difficoltà di relazione con il suo uomo, e il tuo istinto ti porta verso lui, ma lui ti dominerà. Quindi c'è proprio la difficoltà nelle relazioni principali della famiglia, marito e figli, no? Per la donna. Poi all'uomo viene detto il lavoro, la difficoltà dei frutti, no? Della terra, il sudore della fronte. E, ecco, comunque queste difficoltà sono conosciute, e poi c'è il litigio tra i figli, e subito accade, no? Caino che uccide Abele, no? E nella famiglia di Davide tanti delitti anche tra familiari, no? Giobbe che è abbandonato dai fratelli, no? Si lamenta che anche i fratelli sono diventati estranei. Ecco, Gesù, quando arriva, senz'altro ha molto presente la dimensione della famiglia, non solo è stato in una famiglia, poi comincia la sua catechesi nella casa di Pietro, va nella casa di Gairo, in quella di Lazzaro dove c'è la morte, che ovunque Gesù si avvicina alla morte fa risorgere, no? Quindi sono tre episodi, tutti e tre si concludono con una risurrezione. Entra nella casa di Matteo, nella casa di Zaccheo, dove si fa festa per la vocazione ricevuta. E nelle parabole di Gesù ci sono problemi educativi, il figlio che se chiede l'eredità e se ne va via, no? E il figlio a cui il padre dice vai a lavorare, gli dice sì ma non va, e poi quello dice no, ma invece ci va. Ecco, poi senz'altro le nozze di Cana, no? Come l'inizio e l'aiuto a questa, attraverso il vino, no? Attraverso l'acqua che si è tramuta in vino di Maria e di Gesù. Quindi in questo senso la Bibbia, la parola di Dio, questo però ne richiede la nostra capacità di saperla spezzettare, no? Perché sennò si può anche non cogliere, però anche dirlo, no, alle persone che sono in difficoltà, che non è, cioè che non si devono sentire esclusi dallo sguardo di Dio, cioè la Bibbia è piena di queste cose, e la storia umana, no? La storia della Chiesa conosce tutte queste difficoltà, no? E ricordate che Giovanni Paolo II aveva a un certo punto beatificato, intanto ha voluto beatificare coppie, per dire il cammino di santità, quindi Beltrame e Quattr'occhi, poi sono arrivati i genitori di Teresina e di Gesù, de dei quali lui soffriva una malattia psichiatrica molto importante, quindi si può diventare santi anche con le malattie psichiatriche. E poi ce ne sono anche altri, o sono arrivati o sono in via di. Poi ha preso la Gianna Beretta Molla perché appunto per evidenziare una madre, poi ci sono tanti altri casi, una madre che vuole dare la vita perdendo la sua, perché così come anche ha voluto beatificare, perché era possibile, mi pare che si chiama Canori Mora, la conoscete? Non so se si chiama Maria Teresa, adesso il nome, adesso ho un lapsus, o Benedetta Canori Mora. Comunque è una donna romana del 700, Canori Mora me la ricordo, è beatificata, non so se è arrivata alla canonizzazione, che ha avuto un marito violento, ubriacone, dilapidatore di beni, cioè ne ha fatti tutti i colori. E questa donna, pur in queste difficoltà, ecco, è riuscita così a perdonarlo, ad andare avanti a educare i figli. Cioè, ecco, è una vicenda di questo genere, no? Comunque, non è che sono vicende estreme, ma ce ne sono tante, come voi ben sapete, che non escludono, anzi, in qualche modo, insomma, rendono comunque possibile il cammino verso la santità, no? Ovvio che noi desideriamo aneliamo a situazioni di normalità, no? Però esistono anche queste altre situazioni. Allora, questo è ecco, poi c'è un accenno al lavoro nell'ambito della famiglia, e E poi l'ultimo punto, e questo lo evidenzio, poi tornerà nella. L'ultimo capitoletto su questa la famiglia della Bibbia si intitola La tenerezza dell'abbraccio. Quindi Cristo ha messo come segno distintivo dei discepoli la legge dell'amore, no? Come sappiamo, dono di sé agli altri, sia in Matteo che in Giovanni, no? Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Il frutto dell'amore sono anche la misericordia e il perdono. Infatti Gesù non condanna ma accoglie e poi aiuta ad una vita più dignitosa sia insomma, l'adultera, no? Sia la peccatrice che va a trovare nella casa di Simone il fariseo. Ecco, e dice, nell'orizzonte dell'amore essenziale nell'esperienza cristiana del matrimonio e della famiglia risalta anche un'altra virtù, piuttosto ignorata in questi tempi di relazioni frenetiche e superficiali, la tenerezza. Ecco, la tenerezza viene presentata come virtù, quindi il fatto che sia presentata come virtù ci aiuta a capire che può essere che può essere coltivata. E si può crescere nella capacità di esercitarla. No, dobbiamo credere di poter crescere, che e anche l'uomo come essere maschile può, se anche non ha questa dimensione nella sua, così, nella sua indole o nella sua educazione, può impararla e ovviamente deve essere disponibile a e docile alla grazia di Dio e anche all'esperienza umana che gliela può insegnare. No? Il Salmo, ecco, lo voglio citare come espressione di tenerezza. C'è un autore che forse vi ho già segnalato, se in altri, un autore, perché Papa Francesco cita volentieri la virtù della tenerezza, spesso in questo documento, cominciò anche il suo pontificato il giorno di San Giuseppe e citò la tenerezza in quella omelia, e non solo, ma anche. C'è un autore che, se vi interessa approfondire da un punto di vista teologico questa virtù, che da anni lavora sulla tenerezza, e si chiama, vediamo, lapsus memoriae, Carlo Rocchetta è un prete che attualmente, cioè che insegna a Roma, in un'università pontificia, credo la Gregoriana, o insegnava, e poi abita a Perugia dove fra l'altro ha costruito un centro che si intitola La Casa della Tenerezza, dove cerca di recuperare famiglie in crisi attraverso questo cammino, no? Aiutato da altre famiglie, Perugia. Allora, comunque lui, Carlo Rocchetta, pubblica uno o più libri all'anno da 20 anni su questo tema, no? Ce lo va. Quindi c'è un libro grosso che si intitola La teologia della tenerezza, ancora del 2000, mi pare. E poi dopo, per esempio, ha pubblicato un libro che si. Per esempio, un libro biblico con un'altra, che si intitola, mi pare, La tenerezza grembo di Dio amore, che va vedendo nel testo biblico, Antico Testamento, Nuovo Testamento, tutti gli aspetti della tenerezza come caratteristica di Dio e caratteristica degli uomini. No? Poi ha pubblicato anche un altro libro, vi dico quelli, una quantità di vari, no? Alcuni anche devozionali, il Rosario della tenerezza, però un altro che si intitola La teologia del talamo coniugale, teologia del talamo coniugale, molto corretto, molto bello, e dove anche esprime questa dimensione della tenerezza come una dimensione importante anche nell'aspetto dell'amore coniugale. Allora qui cita semplicemente il Salmo dove il salmista dice che rimane quieto e sereno come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, e quell'altro punto del profeta Osea dove dice ero io, e Dio dice quando Israele era fanciullo io l'ho amato, gli insegnavo a camminare tenendolo per mano, lo traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Quindi sono due espressioni di tenerezza da parte dell'orante nei confronti di Dio, come un bimbo svezzato in braccio alla madre, e da parte di Dio nei confronti nostri, che come un padre che porta il suo figlio e un bimbo alla sua guancia. Ecco, poi dopo evidentemente sì, ecco, accenna alla parola di Dio, che può essere anche conosciuta nella famiglia, la famiglia che è chiamata a condividere la preghiera quotidiana, la lettura della parola di Dio, la comunione eucaristica per crescere nell'amore e diventare sempre più il tempio dove abita lo Spirito. Poi la famiglia di Nazareth come icona, diciamo, come esempio di ogni famiglia. Io, sapete, come sapete, l'ultimo libro che ho scritto, ho cercato di mettere l'attenzione su Maria e Giuseppe come storia d'amore tra di loro, cosa che non avevo mai trovato in altri libri. Quindi ovviamente è un libro che scritto in termini narrativi, cioè uno si immagina, no? Che ci possa essere, perché cioè, a partire dal Vangelo, però, ecco, però a me sembra importante, perché se questa coppia, che così come Adamo ed Eva sono all'inizio dell'Antico Testamento, nel Nuovo ci sono Giuseppe e Maria, possano essere di esempio ai coniugi cristiani anche nella dimensione proprio della loro amore, del loro dialogo, della loro, insomma, ecco. Qualcuno, qualche garbatissima critica che mi hanno fatto, diceva: perché non ha messo un bel litigio, no, tra Giuseppe e Maria? In effetti sì, da un lato sarebbe stato anche efficace, anche se c'è un punto in cui discutono, però poi Maria, cioè discutono dove andare quando tornano, e discutono un po'. D'altra parte però, siccome avrebbe aiutato alcuni questo litigio e scandalizzato altri, cioè com'è possibile il litigio, perché questi sono santi. Allora, comunque, ho optato per evitare le polemiche. Se volete immaginarvi il litigio, ve lo immaginate voi, e così siete liberi di farlo. Oh, allora, sono le 11. Benissimo. Per un caffettino. Caffettino, ottimo. Allora, concludiamo così.